30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Il processo di ricostruzione della Repubblica Cecena è stato completato per il 99%. È quanto ha detto il presidente Ramza Kadyrov durante l'inaugurazione di un nuovo centro commerciale a Grozny. Uno spazio di circa 6 ettari munito tra gli altri di un palazzo dello sport. Ora dobbiamo risollevare l'economia creando nuove fabbriche e posti di lavoro, ha aggiunto Kadyrov, applaudito dai partecipanti. Una pioggia di confetti è piovuta poi sul presidente ceceno e su Irina Rodnina, la campionessa mondiale russa di pattinaggio sul ghiaccio, ospite d'onore alla cerimonia. Mosca ha stanziato per il periodo 2008-2011 120 miliardi di rubli, quasi 3 miliardi di euro, per la ricostruzione della Cecenia dopo le due guerre con la Russia. Ancora buonasera e bentornati all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Dunque, a Grozny si apre un centro commerciale, il presidente festeggia, invoca investimenti, impegni internazionali, insomma, richiama una normalità che nella nostra mente difficilmente si associa a questo lembo estremo dell'Europa geografica che negli ultimi 20 anni è stato sinonimo di guerra, di una guerra particolarmente sporca e di molti affari ancora poco chiari. Ecco, qualche giorno fa, proprio dalla Cecenia, è rientrata una nostra amica, oltre che collega, Antonella Scott, inviata del Sole 24 Ore. Buonasera Antonella. Buonasera a voi. Perché si va in Cecenia? Si va per vedere come è cambiato un paese che per noi è un paese dove c'è stata la guerra e dove che è associato soltanto a storie di orrore, quindi si va per vedere con i propri occhi quanto è cambiato, che cosa è oggi Grozny. Diciamolo, dalla prospettiva di Mosca, quella dove tu normalmente operi, la Cecenia in realtà è distante almeno, e forse chissà, più addirittura rispetto a una prospettiva italiana. Insomma, la Cecenia non è presente nella quotidianità moscovita. Oh no, i russi anzi la vorrebbero tenere il più lontana possibile. Per i russi, voglio dire la maggioranza della gente, è un problema che è stato chiuso, è un problema che non si vuole riaprire, nel senso che nessuno ammetterebbe di voler dare l'indipendenza alla Cecenia, ma del resto ormai è un problema che non si pone neppure più laggiù, e però nessuno vuole avere in realtà niente a che fare con i ceceni. È davvero un mondo a parte, una popolazione a parte. Ecco, come si arriva in questo mondo a parte oggi? Basta andare in un'agenzia, non sembrerebbe, però in teoria, soprattutto per noi giornalisti che siamo accreditati al Ministero degli Esteri russo e quindi abbiamo in teoria il diritto di viaggiare in qualunque parte della Federazione Russa, oggi anche la Cecenia è libera, nel senso che dall'aprile scorso, ricordiamo, è stata portata a termine l'operazione, quella che diciamo la guerra per noi, ma che a Mosca chiamano l'operazione antiterrorismo, e quindi non ci sono più leggi speciali che regolano la presenza nella Repubblica Cecena, per cui in teoria basta andare in un'agenzia e comprare un biglietto. Approfondiremo anche il perché di questa teoria. Ora ti chiedo una prima impressione breve, la tua prima immagine arrivando a Grozny. La prima cosa che mi ha stupito per me, che non avevo vissuto la guerra e che però avevo negli occhi le immagini delle case sventrate, dei carri armati in fiamme, mi ha stupito la normalità delle strade, in particolare la via principale che Kadyrov ha rinominato via Putin in onore del primo ministro russo. Mi hanno stupito i semafori, ci sono i semafori naturalmente nuovissimi e con i minuti per i pedoni, per rendere più facile attraversare i pedoni, i giardini, i viali, è una città normale, e non solo nel centro, anche nelle periferie. Insomma, ti ha stupito la normalità in primo luogo. Già, perché riflettere sulla normalità in Cecenia deve essere effettivamente, come dire, un'immagine spiazzante. Due parole sulla storia. La Cecenia è nella storia russa una presenza complessa, dolorosa. Tutti i grandi letterati, da Pushkin a Tolstoi, hanno scritto di rapimenti, scritto di ufficiali russi che andavano a incivilire le popolazioni del Caucaso e che spesso e volentieri finivano nei guai. Insomma, la Cecenia è già una memoria storica che diventa pura violenza all'inizio degli anni 90, quando allora ancora il presidente Boris Yeltsin dà in qualche modo il via libera. Siamo liberi tutti, ogni repubblica prende la sua strada. Bene, la Cecenia in qualche modo fa la sua scelta di separarsi dalla Federazione Russa, ma dal 1991 in realtà è una lunga guerra. Si parla di prima guerra, di seconda guerra, difficile peraltro immaginare quei due anni di pace tra il 1991 e il 2006. La Cecenia è grande poco meno del Veneto, come il Veneto alle montagne appunto che la incorniciano e che ne segnano il territorio, e direi che qui sono finite le similitudini. 1 milione poco più di abitanti. Ecco, e adesso riprendiamo con Antonella Scott, che ci racconta che cos'è oggi arrivare in questa normalità, si fa per dire, di Grozny. Antonella. Beh, la prima immagine di normalità si può avere adesso addirittura dall'aeroporto, che da pochi giorni ha ricevuto lo status di aeroporto internazionale, e infatti qualche giorno fa è partito il primo viaggio diretto alla Mecca, il volo pagato da Ramzan per i pellegrini che hanno partecipato al pellegrinaggio alla Mecca. È normale la vita, come ammettono anche le persone che sono in realtà contro Kadyrov, che magari sono costretti a nascondersi, e che però loro stesse spiegano che la vita negli ultimi anni è molto migliorata, che gli ospedali funzionano, che gli insegnanti nelle scuole possono fare il loro mestiere, e le case, non solo nel centro ma anche nella periferia, ci sono una serie di micro rayon, vengono chiamati, cioè piccoli nuclei di quartieri tutti intorno a Grozny, sono completamente ricostruiti, completamente. Non c'è più traccia delle macerie, anche se poi nel piano, nell'altro piano, nell'altro volto della Cecenia di oggi, la guerra è rimasta, per esempio. Una delle grosse controversie su questa ricostruzione è il fatto che sotto nelle fondamenta delle case ci siano, si continuino a trovare fosse comuni, quindi è una ricostruzione che è basata ancora sull'orrore degli anni passati. La complessità di questo paese sta anche nel passaggio di consegne. Abbiamo citato il presidente Ramzan Kadyrov. Ricordiamo che anche il passaggio dal padre al figlio è stato segnato dal sangue. Festa della vittoria, il giorno della Pabiedi, della vittoria appunto contro il nazifascismo, la grande festa nazionale in Russia. Quello che sentite è quello che è accaduto a Grozny nel 2004. E questo invece è Putin che parla, appunto, di Dien Pabiedi, il giorno della vittoria, e che dice che il presidente Kadyrov, il vecchio, è stato ucciso, e conclude la frase dicendo: è stato ucciso ma ha vinto la sua battaglia. La sua battaglia è quella appunto contro il separatismo ceceno. Da quell'attentato il potere passa di mano. E quanto nella chi è Ramzan Kadyrov? Dunque, Ramzan Kadyrov è il figlio, come ricordavi, di Ahmad, che era il Gran Mufti di Cecenia. Dobbiamo ricordare che i Kadyrov, il clan dei Kadyrov, che ora ha potere totale in Cecenia, in realtà nella prima guerra, quella cominciata da Yeltsin, e poi nella seconda guerra cominciata da Putin, lottavano tra i separatisti. La svolta che Putin è riuscito a dare alla guerra in Cecenia è stato proprio vincere l'appoggio di Ahmad. cioè dare potere totale ad Ahmad Kadyrov in Cecenia in cambio della fedeltà a Mosca. Questo, diciamo, patto faustiano è stato ereditato da Ramzan, che ha soltanto 34 anni e che appunto dopo la morte del padre ha atteso qualche anno prima di poter essere nominato presidente nel 2007, in modo da arrivare all'età, alla maggiore età e all'età necessaria per essere presidente. E ora sta continuando, appunto come dicevamo prima, anche con una certa efficacia, sta continuando quest'opera, cioè lui ha il potere totale, ha l'obbligo di mantenere la Cecenia e quindi anche in qualche modo la regione intera del Caucaso stabile. E in questo modo, diciamo, Putin l'ha, diciamo così, comprato, cioè in cambio Kadyrov fa una grande parte di finanziamenti, il 90% del budget ceceno è coperto da Mosca e quindi ha i mezzi per poter ricostruire e per probabilmente anche arricchirsi. Vedremo il prezzo anche di questa normalità. Vi voglio solo citare un breve passaggio da Chasi Murad, un racconto. Si parla di un capo del Caucaso che passa dalla parte dei russi a causa del suo odio per un altro capo, Ismail, che gli ha ucciso il padre. I russi però non si fidano di lui, non lo aiutano abbastanza e lo spingono ad agire da solo, una decisione che lo condurrà alla morte. Beh, questo altri non è che un frammento di un celebre racconto di Tolstoi, scritto appunto ben oltre 100 anni fa. 30 minuti in cronaca. Меня зовут Наталья Эстемирова. Я работаю в правозащитном центре Мемориал. Il mio nome è Natalia Estemirova e lavoro per un centro che si chiama Memorial. Questa era purtroppo, poiché a luglio questa famosissima attivista per i diritti umani è stata rapita, è stata uccisa, trasferita dalla sua Grozny alla vicina Inguscezia. Ecco, questo introduce la seconda parte di questa conversazione con Antonella Scott, che è in collegamento con noi da Mosca, per parlare di Cecenia, per parlare di questo ritorno alla normalità e anche del prezzo che si paga e di questo livello invece oscuro che è del tutto anormale, in cui le persone spariscono, in cui gli attivisti fanno la fine purtroppo appunto di Natalia Estemirova. Questo era, come dire, una coda del passato o è semplicemente un'altra parte della quotidianità? È un'altra parte della quotidianità, purtroppo, perché il sistema su cui il sistema Kadyrov si basa sulla paura, sul terrore, sulla repressione naturalmente dei terroristi che continuano, sempre meno numerosi si direbbe, la lotta che dalla separazione, da quella che era lotta per la separazione è diventata lotta contro il clan dei Kadyrov, contro il sistema, l'autorità. Natalia Estemirova era quella che adesso i suoi compagni chiamano il motore del movimento per i diritti umani. Lei lavorava per Memorial e cercava, il suo lavoro consisteva nel documentare, nel portare all'attenzione internazionale tutti i casi di violazione dei diritti umani compiuti da tutte le parti, ma in particolare dal sistema Kadyrov. Ecco, ora che è stata uccisa, chi è che porta avanti questo gravoso compito? Dunque, Memorial ufficialmente ha chiuso il proprio ufficio di Grozny, ma c'è chi continua naturalmente più nell'ombra, dato la pericolosità della sua situazione. Ci sono però anche altre persone, altri centri che continuano a cercare di aiutare le persone, che le vittime delle violazioni di diritti umani, e sono un mondo un po' variegato, diciamo, mentre Memorial era totalmente contrario a Kadyrov, quindi la sua linea era denunciare. Ci sono altre persone che stanno cercando di lavorare in qualche modo senza mettersi troppo contro il potere, cercando di per esempio di portare le persone all'attenzione delle autorità e quindi di Kadyrov i casi che man mano si presentano. Ecco, tu ne hai incontrati in questo viaggio in Cecenia? Sì, ho incontrato due persone. Una di queste persone è una madre, una signora che da 2 settimane ha perso la figlia, non ha più alcuna notizia della figlia, che è sparita dalla propria casa nel corso di quella che viene chiamata un'operazione antiterrorismo. Sembra che addirittura Kadyrov in persona abbia partecipato a questa operazione, che aveva lo scopo di uccidere loro lo chiamano i Bojevik, cioè i ribelli. Questa donna di 40 anni, la figlia della signora che ho incontrato, è sospettata, è accusata di essere la compagna e quindi di in qualche modo appoggiare aver appoggiato questo capo ribelle. Ed è questo l'orrore, diciamo, della situazione. Antonella Scott, allora, quanto può essere importante il ruolo di un presidente come Kadyrov in un contesto di sparizioni, di rapimenti? Quanto pesa veramente un presidente? Kadyrov può tutto, è lui la giustizia in realtà. E devo dire che ho provato invidia per una collega della radio canadese che è stata a Grozny, è riuscita a avere un'intervista con Kadyrov e aveva una storia come appunto quelle che raccontiamo, di una famiglia in cui era sparito il figlio. Alla fine dell'intervista è riuscita evidentemente a trovare le parole giuste, si è avvicinata a Kadyrov e gli ha detto: Presidente, non abbiamo più notizie di questa persona, non sappiamo dove sia, non aveva alcun legame con i guerriglieri, solo lei può fare qualcosa per aiutarli. E il giorno dopo quest'uomo è stato liberato e da allora nessuno lo ha più toccato, perché lui era stato liberato da Kadyrov. Ecco, la Cecenia è un luogo che ancora oggi registra 70.000 profughi in Inguscezia. La Cecenia è un luogo dove appunto si può sparire da un momento all'altro senza lasciare traccia di sé, e non ci riferiamo evidentemente tanto ai combattenti armati, militanti, estremisti che fanno parte anche del panorama. Ecco, in questo senso, Antonella, sparire oggi in Cecenia è una rarità? Si possono stimare quante sono le persone che mancano all'appello? Una stima era stata fatta da Natalia Stemirova e naturalmente si ferma dove Natalia ha potuto arrivare. Luglio di quest'anno, lo ricordiamo. E luglio di quest'anno, nei primi 6 mesi quindi dell'anno, lei aveva parlato di più di 70 persone scomparse. Tra queste ci sono i figli di un signore di 70 anni, anche lui è incontrato mentre era in un centro che cerca di continuare la lotta per i diritti umani a Grozny. Questo signore ha 70 anni e racconta che in prima dell'estate un proprio figlio, il maggiore dei suoi figli, che faceva parte della ribellione, è stato ucciso. Il cadavere del figlio è stato portato, trascinato davanti al padre, e i miliziani di Kadyrov hanno ordinato al padre di maledirlo e di sputargli sopra. Questo signore si è rifiutato e ha detto: io sono sicuro che Dio lo ha già perdonato. Allora il capo dei miliziani lo ha picchiato, lo ha fatto cadere a terra, ricordo che questa persona ha 70 anni, ed è stato preso a calci. Lui ha ad altri figli, avevano raggiunto un accordo con i miliziani, con la polizia, diciamo, perché i figli si presentassero regolarmente alle autorità a Grozny in modo da assicurare che non sparissero. Come dicono laggiù, di non andare, ecco, sì, andare sulle montagne, l'espressione per dire di chi va a raggiungere i guerriglieri. Tra l'altro il secondo figlio di quest'uomo ha un'infermità mentale e non ha mai fatto parte, non ha mai avuto niente a che vedere con la guerriglia. Questo ragazzo è scomparso dopo poco, dopo aver stretto questo accordo e essersi presentato regolarmente. Quest'uomo non ha più nessuna possibilità di rivolgersi alla giustizia, ha perso ogni speranza di poter contare sulla giustizia, del suo, di questo paese, e ora chiede solo di potersene andare. Andarsene, dunque. Torniamo in quest'ultimo minuto, minuto e mezzo che abbiamo ancora, invece al piano superiore. Abbiamo visto che di fatto è un paese spaccato in due. Ritorniamo sulle strade, sulla strada principale che ci hai raccontato, ora si chiama Prospettiva Putin? Via Putin, Largo Putin, come vogliamo noi, sì. E lassù si fanno affari. Che affari si possono fare oggi in Cecenia? Perché la gente dovrebbe venire in Cecenia? Non è certo un invito rivolto agli imprenditori, è una curiosità. Diciamo che sono più forse gli imprenditori ceceni che, come dicono a Grozny, sono diciamo costretti a mettere i propri soldi nella ricostruzione. Sicuramente l'economia ancora non esiste praticamente, ma l'unico settore che funziona è quello della costruzione. Si vedono tantissimi palazzi, gru che al lavoro addirittura 24 ore su 24, e in questo bisogna riconoscere, se uno si potesse fermare a queste immagini, alle immagini anche dei giardini davanti alla moschea di Grozny, le fontane colorate, si potrebbe dire che c'è una certa efficienza in questo, che Kadyrov sa far girare i soldi che gli arrivano, se ci si potesse fermare a questo. Grazie ad Antonella Scott, lo ricordo, reduce da un viaggio appunto a Grozny, città di cui troppo poco in realtà si parla negli ultimi tempi, città che è in qualche modo cerca di affrontare una trasformazione, l'avete sentito, anche piuttosto stupefacente, almeno nella sua apparenza. Noi siamo arrivati alla conclusione, radio24.it come al solito, il web per sentire e risentire le trasmissioni di Radio 24, ringraziamento a Carmelo Lauricella in regia, da parte mia un ottimo fine settimana a tutti voi.